in primo piano. Buongiorno da Elisabetta Fiorito, in studio Alessandro Chiappini e con noi ospite Nicoletta Cottone del nostro giornale Il Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Andiamo subito a vedere i titoli dei giornali, che sono più che altro concentrati su quanto sta succedendo al confine tra Siria ed Iraq, perché appunto sono sempre dei titoli che parlano di questa tragedia dello sterminio, del genocidio delle minoranze, sepolti vivi dagli islamisti. La Stampa denuncia shock di Baghdad, raid USA, i curdi riconquistano due città, il ministro Mogherini pronti a dare una mano, e questa appunto La Stampa. Il Messaggero, Iraq, donne e bambini sepolti vivi, i raid USA non fermano le stragi jihadiste, fosse comuni con centinaia di cadaveri, in 20.000 sulle montagne, i curdi conquistano due città, Hillary ad Obama sei troppo cauto. E una seconda apertura anche del Corriere della Sera, centinaia di donne e bambini gettati vivi nelle fosse comuni. E poi soprattutto Obama, è un dovere fermare il genocidio, su Repubblica un'intervista del Presidente degli Stati Uniti a Thomas Friedman, che tra poco leggeremo. Invece altri titoli sono: basta con il fisco repressivo, Orlandi, vogliamo impedire l'evasione e non rincorrerla, un'intervista del capo dell'Agenzia delle Entrate al Corriere della Sera, e anche il nostro giornale Il Termometro del rischio evasione. Calabria e Sicilia restano maglia nera, dice Il Sole 24 Ore, ma dall'inizio della crisi peggiora anche il nord. Ovviamente la Gazzetta dello Sport apre col T-Day, praticamente le elezioni di Tavecchio, che è in netto vantaggio dopo il caos, dice il candidato alla Federcalcio, è tempo di riforme. Quindi riforme anche nel calcio, non solo nella politica, Nicoletta. Poi abbiamo il Far West della mala sanità su Italia Oggi, e due padri, due madri e due gemellini è invece l'apertura del Foglio. Ultima apertura che vi leggo, sono quella del Giorno: Renzi a Draghi, decido io, farò le riforme e non mi faccio dettare l'agenda dalla BCE, UE o Troica. Il Giornale: basta immigrati, paghiamo per farci invadere. E poi il Fatto Quotidiano, che un po' controtendenza dedica pagine intere all'amore al tempo di Lucio Battisti, apertura un po' fiacca quella del Fatto Quotidiano. Si vede che pesa l'estate, il lunedì. Allora andiamo subito a interessarci agli esteri, perché queste sono le aperture maggiori dei giornali di questa mattina. L'intervista di Thomas Friedman al presidente degli Stati Uniti Barack Obama, ricordiamo che noi leggiamo sulla carta, quindi sentite i giornali che diciamo così vengono sfogliati. Allora Obama a un certo punto risponde a una domanda sulla disintegrazione praticamente dell'ordine post seconda guerra mondiale, e lui dice che non bisogna generalizzare troppo, ci sono un mucchio di aree nel mondo da cui si continuano ad avere buone notizie. Si guardi all'Asia, a paesi come l'Indonesia, a tanti paesi dell'America Latina come il Cile. La mia però opinione, dice Obama, è che quello a cui assistiamo in Medio Oriente e in parti del Nord Africa sia un ordine risalente alla prima guerra mondiale che sta cominciando a cedere. E allora Thomas Friedman gli chiede su Repubblica: ma le cose non andrebbero meglio se avessimo armato per tempo i ribelli in Siria o se avessimo mantenuto le nostre truppe in Iraq? E Obama risponde: la verità è che la presenza di truppe USA in Iraq non sarebbe mai stata necessaria se la maggioranza sciita non avesse sprecato un'occasione per condividere il potere con sunniti e curdi. Se la maggioranza sciita avesse colto l'opportunità per dialogare in modo più efficace, quindi con sunniti e curdi, nessun apporto militare esterno sarebbe stato necessario. In assenza di queste buone volontà da parte degli sciiti, le nostre truppe truppe prima o poi si sarebbero ritrovate prese in mezzo al fuoco. Quanto alla Siria, l'idea che armando ribelli le cose sarebbero cambiate è sempre stata una fantasia. Il punto più generale, dice il presidente Barack Obama, che dobbiamo tenere bene a mente, è che nel caso dell'Iraq abbiamo una comunità sunnita, minoranza nel caso dell'Iraq, maggioranza nel caso della Siria, che è scontenta, una comunità che sostanzialmente si estende da Baghdad a Damasco. Se non si riuscirà a proporre una formula che venga incontro tra le loro aspirazioni, avremo inevitabilmente dei problemi. Purtroppo per un certo periodo la maggioranza sciita dell'Iraq questo non l'ha compreso fino in fondo. Stanno cominciando a capirlo adesso. Purtroppo c'è ancora l'IS, che a mio parere non ha grande seguito fra il grosso della popolazione sunnita. Il problema è che stanno riempendo un vuoto, e la domanda che ci dobbiamo porre non è semplicemente come contrastarli sul piano militare, ma come riuscire a parlare a una maggioranza di sunniti che in quell'area, che in questo momento è separata dall'economia globale. Allora, poi lui dice: quando ci si trova in circostanze straordinarie dove c'è il rischio di un genocidio, e ricordiamo sta parlando il presidente degli Stati Uniti, un paese non è contrario al nostro intervento quando c'è un ampio consenso nella comunità internazionale sulla necessità di proteggere queste persone. Abbiamo la capacità di usare la forza militare, abbiamo il dovere di farlo. Ma riguardo a quell'isola di decenza che i curdi hanno saputo costruire, dobbiamo anche chiederci non solo come fare per rigettare indietro l'IS, ma come fare per preservare lo spazio per gli impulsi migliori all'interno dell'Iraq. Respingere indietro l'IS, dice Obama, è nel nostro interesse strategico. Non intendiamo permettergli di creare un califfato in Siria e in Iraq, ma possiamo riuscirci solo se sappiamo di avere dei partner sul terreno che sono in grado di colmare il vuoto. Perciò, se dialogheremo con le tribù sunnite, se dialogheremo con i governatori, i capi locali, avranno la sensazione di combattere per qualche cosa. In caso contrario potremo cacciare indietro l'IS per un certo periodo, ma appena i nostri aerei se ne saranno andati, loro torneranno subito. Ecco, questa è l'intervista di Barack Obama proprio su quello che sta avvenendo, su questo genocidio che sta avvenendo tra Siria ed Iraq del califfato. Ecco, Nicoletta, ieri ha parlato anche il Papa di questa questione. Che cosa ha detto? Sì, ieri è intervenuto anche Papa Francesco, continuando quello che è un po' il suo pressing di denuncia per la situazione che si è creata in Iraq creata dal califfato islamico. Ha rinnovato un appello perché si trovi un'efficace soluzione politica a livello internazionale e locale che sia in grado di fermare questi crimini. E, è intervenuto anche ricordando Gaza e dicendo che dopo una tregua è ripresa la guerra, una guerra che miete comunque vittime innocenti e non fa che peggiorare il conflitto fra israeliani e palestinesi. E su Gaza ricordiamo che adesso ci sono 3 giorni di nuova tregua, un altro cessate il fuoco di 72 ore dalle 24 locali di ieri sera. Su Israele interviene anche Barack Obama, che dice: è straordinario vedere cosa è diventato Israele negli ultimi decenni, e dice però: la vera questione secondo me è come sopravviverà Israele, come creare uno Stato di Israele che sappia mantenere le sue tradizioni civiche e democratiche, e per riuscirci sono sempre più convinto che sia necessario trovare un modo per vivere fianco a fianco dei palestinesi in pace. Segnalo invece un'intervista di Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera al comandante dell'ISIS, che ha censito i cristiani. Qui può tornare soltanto chi si converte all'Islam. Allora, lui intervista Haji Otman del califfato islamico a Mosul, e lo intervista per telefono e dice: sono un giornalista italiano e telefono da Erbil. E lui dice, questo Haji Otman: chi le ha dato il mio numero di telefono? E il numero di telefono gliel'hanno dato i cristiani, perché Haji Otman è l'uomo che i cristiani fuggiti da Erbil descrivono come il rappresentante del califfato per i rapporti con le comunità non musulmane, e dicono che li ha traditi, ha preso i loro nomi, numeri telefonici e individuato le loro abitazioni, ha censito la popolazione cristiana. Prima li ha rassicurati invitandoli a restare nelle loro case a Mosul, ma pochi giorni dopo dalle moschee è arrivato l'ordine di scegliere tra convertirsi, pagare una tassa o essere uccisi. Allora dice, la linea è un po' disturbata, e Lorenzo Cremonesi chiede: come spieghi i recenti successi militari dei combattenti del califfato? Questo ancora nulla, appunto, risponde Aji Otman. Siamo solo all'inizio, e lo risponde con pungolato orgoglio proprio. Cosa vuoi dire? Che armi avete? Siamo ad ora... Sino ad ora abbiamo utilizzato solo una minima parte delle nostre forze che abbiamo a nostra disposizione, e voi non potete neppure immaginare quanto siamo forti. Cioè abbiamo un potere immenso, resterete tutti stupefatti, non potete resisterci. Però l'aviazione americana, fa notare Cremonesi, vi sta bombardando a suo piacimento. Ma dai, cosa stai dicendo? Non abbiamo mai avuto paura degli americani, neppure quando nel passato eravamo più deboli. Perché mai pensi che dovremmo avere paura oggi? Li abbiamo battuti prima e li batteremo ancora. Alla maledica gli americani e i loro alleati. E Cremonesi chiede: cosa rispondi ai cristiani che vorrebbero tornare alle loro case di Mosul e nella piana? Che possono tornare, dice lui, sono i benvenuti, ma a una condizione: che si convertano all'Islam, allora li accoglieremo da fratelli, e se vogliono restare cristiani, allora devono pagare la jizya, che è praticamente l'antica tassa imposta dai musulmani alle minoranze non islamiche. Non hanno però alternative. Quindi a quanto ammonta la jizya? Chiede Cremonesi. Fratello, risponde Aji Otman, io sono un militare, non mi occupo di cose contabili, io combatto e basta. Questi aspetti vanno chiesti ai nostri imam nelle moschee di Mosul, sono loro che stabiliscono le leggi. Poi dice: ma tutto il mondo racconta dei vostri crimini contro gli yazidi, cosa avete fatto alle loro donne? È vero che sono diventate vostre schiave sessuali, ma non è vero per nulla, sono i media che riportano queste falsità, sono menzogne, noi non facciamo queste cose, eppure le raccontano gli yazidi. Otman interrompe qui e dice: ora basta, ho finito, cancella il mio numero, non mi telefonare mai più. Insomma, Nicoletta, veramente fa venire i brividi questa intervista. Davvero. Allora, i falchi contro Obama, un articolo invece del Messaggero, per capire un attimo che cosa sta succedendo anche in America, perché si è schierata perfino Hillary Clinton, che in un'intervista alla rivista The Atlantic ha accusato Obama di essere troppo cauto in politica estera. È noto che Hillary ha sempre avuto posizioni più interventiste di Obama, ed è chiaro che l'ex segretario di Stato si prepara a una discesa in campo per le presidenziali del 2016 e cerca di distanziarsi da un presidente che la stampa sempre più indica come timido in politica estera. Con lei si sono schierati i senatori Lindsey Graham e John McCain, sempre d'accordo nell'invocare un maggior ricorso alla potenza militare degli Stati Uniti. Tutti e due i senatori repubblicani sostengono che Obama ha aspettato troppo a muoversi contro i jihadisti di ISIS, favorendone l'ingigantirsi, e che ora sta facendo troppo poco. Altra notizia di esteri, per chiudere questa pagina molto importante oggi sui giornali, è praticamente la vittoria di Erdogan in Turchia. Allora, intanto ci sono due titoli un po' contrastanti, uno sulla stampa che dice: Erdogan vince ma non è un plebiscito, e praticamente cronaca di una vittoria annunciata ma di un plebiscito mancato. Erdogan è stato eletto 12° presidente della Repubblica Turca al primo turno previsto, il primo ad elezione diretta della storia del paese, ma senza la maggioranza che molti avevano previsto alla vigilia del voto. Anzi, il primo ministro islamico moderato si è fermato al 51,8% di preferenze, un risultato che avrebbe potuto essere ancora più basso. E questo praticamente quanto scrive Marta Ottaviani sulla stampa. Mentre Elisabetta Rosa Spina, faccio notare, due inviate donne in Turchia in questo momento, sul Messaggero dice, la pensa un po' diversamente, perché dice: maggioranza assoluta, niente ballottaggio, in meno di una giornata, tre quarti dell'elettorato turco ha scelto Erdogan presidente con il 52% di preferenze, il mandato è di 5 anni. anni, ma in cuor suo Erdogan, 60 anni, confida di essere ancora lui il capo di Stato nel 2023, quando la Repubblica ne festeggerà 100, sarà lui l'uomo che nei libri della storia sarà impaginato accanto ad Atatürk, che della moderna Turchia fu il fondatore. Però a differenza di Atatürk, lui che cosa ha fatto? Ha preso e ha subito festeggiato andando a pregare in moschea, ed è questo perché anche se gli andiamo l'opinionista sempre sul Messaggero, per noi donne sarà un passo indietro, perché ricordiamo Erdogan ha una visione abbastanza islamica di un paese che fino a poco tempo fa si considerava laico e che aspirava a diventare membro dell'Unione Europea. Allora noi però lasciamo questa pagina di esteri piuttosto corposa oggi per parlare d'altro e per tornare quindi in casa nostra con un sorriso, ma diciamo sì. Al chiaro del mattino, al chiaro del mattino, chi vengono la canton, chi vengono la canton, al chiaro del mattino, al chiaro del mattino, chi vengono la canton, solo il sole. E in questa seconda parte chiediamo anche ai nostri radioascoltatori di intervenire, 349-238-6666. Questa era la canzone che tutti coloro che hanno fatto gli scout, inclusa la sottoscritta, quella che vi parla, odiava quando si entrava in tenda la mattina, cioè si stava in tenda al calduccio, c'erano i capi che venivano a svegliarci, e questa era la canzone che si cantava Nicoletta. Allora, un Renzi scout, prima di dare la pausa alla regia, un Renzi che riscopre i valori di San Francesco, dello scoutismo. Sì, un Renzi scout che ieri, fra le altre, ha rilanciato la proposta del servizio civile universale, che sarà, diciamo, dedicato ai ragazzi fra i 18 e i 28 anni, e sarà un servizio civile di 8 mesi, di cui 6 nell'ambito di un progetto specifico, una sorta di accompagnamento verso il mondo del lavoro da una parte, oppure un'esperienza di scambio con altri paesi come Francia, Germania, dove esiste già un servizio civile volontario. Vedremo poi come si passerà dal la teoria alla pratica. Abbiamo anche visto la signora Renzi fare tutti i canti con il fazzolettone, però la cosa fondamentale sono sempre i conti pubblici. E allora ieri il nostro Presidente del Consiglio ha mandato un messaggio chiaro all'Unione Europea, alla BCE, a Mario Draghi, che l'aveva un po' bacchettato nei giorni scorsi, e ha detto: non sforerò il 3%, però si va verso un vertice con Napolitano. Ci sono molte pagine dei giornali, noi stiamo prendendo spunto dal Corriere, ma insomma ci sono molte pagine dei giornali che si dedicano a questo. Allora, in sostanza, è riuscita a convincere i mercati con questa intervista al Financial Times? Io so che tu hai lavorato in questo weekend, quindi l'hai letta attentamente questa intervista. Beh, questo era sicuramente il suo obiettivo, certamente è stato rassicurante, perché ha detto: non supereremo il tetto del 3%, ha detto: speriamo di avere dei dati migliori della crescita nella seconda metà e come risultato quindi essere al 2,9%. Questa, secondo quella del 3%, secondo Renzi è una vecchia regola, ma è una questione di credibilità e di reputazione dell'Italia, anche se altri sorpasseranno questo 3%, ha detto. Un altro annuncio è stato: porteremo l'Italia fuori dalla crisi, l'Italia ha un grande futuro, le finanze italiane sono sotto controllo e continueremo a ridurre le tasse, e ha annunciato cose rivoluzionarie. Insomma, lui annuncia sempre la politica degli annunci, però è un po' il tallone d'Achille, no, del governo Renzi, anche perché c'è un editoriale di Scalfari oggi su Repubblica che non gli fa sconti. Allora, a proposito proprio di conti pubblici, perché il problema è anche un po' quello, no, Nicoletta? Abbiamo visto che c'è intanto il nostro giornale Il Sole 24 Ore, che proprio apre con il termometro del rischio di evasione, no? Il rischio di evasione è più elevato in Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta, Campania e Sardegna. In queste regioni il divario tra i consumi delle famiglie e i redditi dichiarati al fisco è maggiore, ma negli anni della crisi la forbice si è allargata in molte aree del centro-nord, in particolare in Lombardia, Toscana, Emilia, Romagna e Piemonte. Allora, questo è sempre stato un po' il male del nostro paese, ma a un certo punto non si era detto che poi oltretutto contava anche il nero nel prodotto interno lordo, ma insomma. Sì, effettivamente è vero. Comunque in questo articolo di Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente si parla proprio dell'economia sommersa, che rappresenta un iceberg gigantesco che di tanto in tanto affiora. Qui ci sono dei numeri molto chiari: le spese delle famiglie superano di 160 miliardi l'imponibile dichiarato. Questo significa in pratica che ogni 100 euro che vengono dichiarati al fisco, gli italiani nel 2012 ne hanno spesi circa 120, e la differenza fra consumi e redditi è un indicatore importante del rischio di evasione, perché fa capire quanto il tenore di vita è incoerente rispetto all'imponibile che viene dichiarato. Il divario è più alto in Calabria, Sicilia, Val d'Aosta e Campania, e poi al contrario invece il divario è cresciuto in quasi tutte le regioni del centro-nord, dalla Lombardia all'Emilia Romagna, dal Piemonte alla Toscana, e in misura minore in Veneto, Liguria e Friuli Venezia Giulia. Un'altra cosa molto interessante di questo pezzo è l'identikit di chi aggira le imposte, perché ci sono 19 profili dei contribuenti infedeli che sono stati tracciati dal piano anti-evasione del governo, e per ciascuna condotta sono stati individuati dei possibili strumenti per scoprire chi dichiara poco o anzi a volte niente al fisco. Allora, intanto rispondo a un radioascoltatore che mi dice: solo voi non sapete che Il Fatto Quotidiano lunedì non esce in edizione normale. Ok, non uscire in edizione normale, però insomma quattro pagine su Lucio Battisti possiamo criticarle, no? Ci sono dei momenti dei lunedì che Il Fatto è molto più interessante. Allora, grandi frodi da punire, fisco più facile, l'evasione va fermata e non rincorsa. Questa invece è l'intervista al Corriere della Sera Rossella Orlandi, 57 anni, ricordiamo che è praticamente il capo delle agenzie delle entrate, e dice pure: non sarò il presidente di Equitalia. Ricordiamo che Attilio Befer era il presidente di tutte e due, no? Comunque, la vera rivoluzione è impedire l'evasione e non rincorrerla. Le stime dicono che ogni anno vengono sottratti al fisco 120 miliardi di euro e noi ne recuperiamo 12 o 13, ma il vero problema è che ci sono quasi 600 miliardi di accertamenti relativi agli anni passati affidati alla riscossione di Equitalia, che non si riusciranno mai ad incassare. Dovremo smettere di inseguirli e concentrarci sull'evasione che si crea ogni anno. Colmare il divario tra quei 120 miliardi e i 13 che incassiamo. Ho dedicato tutta la mia vita a questo lavoro, darò il massimo, promette Rossella Orlandi. Ecco, quindi lei dice: scordiamoci lo passato, praticamente, la Orlandi, cominciamo a far sì che dobbiamo un po' rincorrere quello che accade adesso, e questo ingraniamo una marcia nuova, insomma. Sì, tanto quelli non ci pagheranno mai oramai. Insomma, babbo morto, ecco, questo è un po' però importante, perché forse lei dice in passato, qui c'è un po' una critica velata al predecessore Befera, e c'è stato un forse un po' troppo protagonismo, e poi rilancia anche una caccia ai pesci grossi, ecco, non perdere tempo magari con quello che è successo in passato, dove poi Equitalia, l'Agenzia delle Entrate sono stati odiati, no, dai cittadini, perché c'erano gli imprenditori purtroppo che non ce la facevano a pagare le tasse, e alcuni, diciamolo, si sono anche falliti purtroppo nel peggiore dei casi alcuni si sono anche suicidati, effettivamente inseguire i pesci grossi potrebbe dare sicuramente dei vantaggi notevoli al fisco italiano, e soprattutto magari dare un senso di equità, proprio come dovrebbe essere Equitalia o dovrebbe essere l'Agenzia delle Entrate, cioè il piccolo imprenditore che alla fine è strozzato, non ce la fa pagare, poi alla fine lo Stato rischia di essere percepito come un nemico, no? Anche perché, e qui tu mi hai fatto notare che a me era sfuggito mentre preparavamo insieme la rassegna stampa, Nicoletta, gli sprechi continuano. Per esempio, cioè nel Lazio abbiamo visto, c'era un articolo del Messaggero che parlava proprio di sprechi, del fatto che, ora lo stiamo cercando, del fatto che praticamente non si fermano. Eccolo qui. Lazio, vitalizia 50 anni, 3 milioni per 44 ex consiglieri. È una sorta di bomba orologeria, dice il Messaggero, che sta per esplodere nei conti del Consiglio regionale del Lazio. Si chiama Vitalizi e già oggi vale un salasso da 20 milioni di euro l'anno nella regione che in Italia è stata fra le più generose e sprecone nel fissare i criteri per calcolare la maxi pensione di presidenti, assessori e consiglieri. Ma non era stato abolito, si chiede il Messaggero, il vitalizio? Sì, era stato abolito e infatti i consiglieri in carica non lo riceveranno, ma per il passato la torta è ancora intatta. Allora, segnaliamo poi invece sul Fatto Quotidiano, sempre per parlare di sprechi, perché ecco, bisogna sempre bilanciare quello che lo Stato chiede e che è giusto dare, però poi bisogna anche dire quello che lo Stato spreca. La cassa d'una volta, questo invece è un articolo molto carino di Fabrizio D'Esposito, tra furbetti, truffe e cambi di partito. Il Parlamento nell'Ottocento, così simile ad oggi. E se si va all'interno del Fatto Quotidiano si vede proprio come praticamente l'Italia un pochino è sempre stata un po' così, albori della casta, gli avi dei deputati, perfetti maestri dei parlamentari di oggi. Già da allora la politica è definita accademia di cinismo e gli appaltatori corruttori asfissiavano la Camera. Nel 1861 votarono in 419.000, bastavano poche preferenze per conquistare un posto. Insomma, certe volte la storia si ripete, no? E questo segnaliamo è l'articolo sul Fatto Quotidiano. Segnalo anche, sempre per quanto riguarda il fisco e l'agenda economica del governo, un articolo di Renato Brunetta sul Giornale. Recessione, spread su borse giù, autunno nero, Berlusconi non farà come la sinistra che di fronte all'attacco speculativo contro il nostro debito sovrano nel 2011 giocò al tanto peggio tanto meglio. Ecco, si parla poi di questa intesa tra Berlusconi e Renzi, Nicoletta, che potrebbe essere anche un'intesa sull'economia, cioè alla fine il Cavaliere darà una mano, visto che la situazione è questo meno 0,2%, questa recessione tecnica in cui l'Italia si trova? Beh, sicuramente è una cosa che preoccupa anche il Cavaliere. Fra le altre, nei giorni scorsi il ministro Padoan, in un'intervista al direttore del Sole 24 Ore, aveva detto con chiarezza che l'economia italiana peggiora e la velocità delle riforme è tutto, quindi è chiaro che si deve arrivare a una quadra. Allora, dunque, segnaliamo vari interventi dei radioascoltatori che dicono equità è che le tasse le paghino tutti, risolto il problema dell'evasione, risolti tutti i problemi d'Italia, abbiamo più evasione che in Grecia, secondo questi calcoli tutti i disoccupati, se non muoiono di fame, dovrebbero essere evasori, visto che c'è uno scostamento tra guadagni e consumo. No, noi non diciamo questo, noi diciamo bisogna pagare tutti le tasse e bisogna eliminare gli sprechi, questo per un'Italia migliore. E come papà, insomma, c'è anche un altro che interviene sull'ISIS, altro che pronti a dare una mano contro quei folli criminali dell'ISIS, tutte le nazioni civilizzate dovrebbero intervenire a prescindere dai rapporti tra loro. Quindi vediamo che, insomma, i nostri radioascoltatori, c'è anche per gli scout in Italia, bisognerebbe ricordare che la prima associazione è la CENGEI, poi ci fu, insomma, 4 anni prima della GESCI. Luigi, vedo Tommaso da Massa Carrara, vedo che sei molto ferrato riguardo alle organizzazioni scautistiche. Allora, andiamo a vedere il primo vero successo di Matteo Renzi, che è stata la riforma del Senato. Allora, segnalo un'intervista su Repubblica di Piero Grasso, il presidente di Palazzo Madama, che ha detto che da magistrato non si immaginava così l'arena politica, che va a ricaricarsi qualche giorno nella sua Palermo, capito Nicoletta Grasso? Praticamente dice, ora che è finita, chiede Liana Milella, ci dice da che parte è stato in queste due settimane di calvario parlamentare, con la maggioranza o con l'opposizione? Liana sempre pungente. Molto pungente, sì. Visto che parla di calvario, risponde Grasso su Repubblica, mi verrebbe da rispondere con una battuta, sono stato due settimane in croce. Seriamente invece posso assicurare di non essere stato né con l'una né con l'altra parte. Il Presidente del Senato ha compiti ben precisi e deve essere terzo e imparziale. E credo di esserlo stato fino in fondo. Sappiamo che invece il Movimento 5 Stelle ha molto criticato la presidenza di Grasso, c'è stato un fortissimo ostruzionismo, soprattutto una forte opposizione, cartelloni in aula, i canguri in aula. Nicoletta, l'avresti immaginata mai così questa battaglia parlamentare, o siamo abituati oramai? Beh, ormai secondo me siamo abituati a vedere le aule parlamentari in questa situazione. Comunque è certo, insomma, che ormai bisogna arrivare rapidamente a ultimare le riforme. Quello della riforma del Senato è stato solo un primo passo, perché essendo un disegno di legge costituzionale ha bisogno di un doppio passaggio parlamentare, di essere approvata nello stesso testo due volte sia dalla Camera che dal Senato a distanza di 3 mesi. Quindi l'iter è ancora lungo, e fra le altre i capitoli che attendono Renzi subito dopo il mese di agosto sono moltissimi. Allora, per i nostri radioascoltatori grillini, segnalo un articolo su Repubblica di Tommaso Ciriaco, che parla appunto, il pendolo a 5 stelle oscilla incessantemente, e un sabato di agosto si forma sul no a ogni dialogo sulle riforme, con questi golpisti tuona Beppe Grillo dal blog, non ci vogliamo più avere niente a che fare, prepariamoci al referendum confermativo per il Senato, il potere appartiene al popolo e non ai partiti. E poi a un certo punto dice anche Ciriaco che Renzi andrà presto da Napolitano, mentre sempre sul Movimento 5 Stelle, però ovviamente critico, il giornale, la politica fa bene ai conti di Casaleggio, perché nel 2013 c'è un boom di ricavi per la società del guru del Movimento 5 Stelle grazie al blog di Grillo e ai siti legati al movimento. Perché Casaleggio aveva detto andate a vedere i bilanci della Casaleggio associati depositati alla Camera di Commercio, il giornale c'è andato e praticamente ha visto che nel 2012 la Casaleggio associati fatturava 1,3 milioni di euro e nel giro di un anno ha quasi raddoppiato il giro d'affari, chiudendo con un ricavo di 2,1 milioni di euro. Ricordiamo, è il giornale ovviamente, quindi è sicuramente un articolo contro, non a favore. Vedo assolutamente i vostri sms che dicono mi raccomando, non dite di Berlusconi, non è più cavaliere, Berlusconi è ancora cavaliere, ve lo confermiamo. Poi va bene, è sicuramente stato condannato Claudia, però questo lo dobbiamo dire per dovere di cronaca. Continuiamo a parlare di riforme. Lupi alla Stampa in un'intervista: chi ci impedisce di fare le riforme vuole le macerie. Il ministro del nuovo centrodestra dice non ci serve il soccorso azzurro di Forza Italia. Quali però sono le riforme che si stanno preparando? Il 29 ci sarà il nuovo Consiglio dei Ministri. Nicoletta Cottone del Sole 24 Ore. Sì, il 29 dovrebbe essere varato lo sblocca Italia, per sbloccare, proprio come dice la parola, gli interventi infrastrutturali. Per ora però c'è incertezza sulle risorse che dovrebbero essere rese disponibili prima del varo della legge di stabilità. Un altro capitolo sempre all'esame il 29 del Consiglio dei Ministri è il tema giustizia. I testi sulla giustizia civile saranno portati al Consiglio dei Ministri. Gli altri testi di riforma sono invece in corso di elaborazione al vaglio del delle forze di maggioranza. Poi in Parlamento ci sono vari provvedimenti che attendono, c'è il disegno di legge, il Jobs Act 2, poi c'è la legge di stabilità in arrivo e il governo dovrebbe rendere strutturale questo bonus di 80 euro IRPEF, c'è la spending review e c'è la delega fiscale, il DDL di delega dopo l'approvazione della prima tranche. Allora, mi collego a quanto dice giustamente un radioascoltatore: è onesto far credere che la riforma del Senato sia un fatto compiuto? Assolutamente non lo facciamo credere, abbiamo sempre detto che è una prima lettura e che manca un anno prima che l'approveranno, perché ha bisogno di un doppio passaggio, una legge di revisione costituzionale. Ma non solo, le dirò di più, perché Nicoletta Cottone mi ha detto una cosa prima: ma queste riforme poi sono attuate, Nicoletta? Perché ci sembra sempre che si parli di questi decreti attuativi. Ecco, ci spieghi un pochettino qual è la trappola dei decreti attuativi? Cioè, le riforme vengono approvate, poi praticamente il Consiglio dei Ministri dovrebbe provvedere a delle leggi ad hoc che attuino queste riforme, esatto, giusto? Provvedimenti che però sono sempre in ritardo. Per esempio, c'è stato proprio nei giorni scorsi un monitoraggio del ministro Boschi sui numeri e da lì vediamo che solo il 38% dei provvedimenti varati finora dal governo Renzi, cioè 15 su 40, non prevedono il rinvio a misure attuative, mentre tutti gli altri ne hanno necessità per dare piena operatività ai provvedimenti. E ci sono in totale 171 regolamenti da predisporre. Poi ci sono tutte le misure ereditate dal governo Monti e ci sono quelle anche ereditate dall'esecutivo Letta. Quindi diciamo che non basta approvare le leggi, ma poi c'è tutto l'iter dei decreti attuativi che è piuttosto lungo e doloroso. Lungo e doloroso anche per Renzi. Sì. Allora, quindi ecco, diciamo subito che le riforme si fanno, ma non sempre poi sono attuate. Questo è il problema in Italia. Allora, il ministro della Salute Lorenzin interviene con intervista a Repubblica proprio sulla fecondazione eterologa. Sappiamo che c'è questo contrasto tra la magistratura e il governo. Ah, quanto è strano in Italia un contrasto tra la Consulta e il governo. Perché mentre la Consulta dice che praticamente si può attuare la fecondazione eterologa dopo la bocciatura della legge 40 che la vietava, ricordiamo che la fecondazione eterologa è quando si fa ricorso a un partner esterno, a un donatore esterno della coppia, la Lorenzin, e qui ci è sembrato un po' una posizione conservatrice e cattolica, scusate, ma essendo lei del nuovo centrodestra bisogna pure dire, no, che potrebbe esserci questo dietro, ha detto no, bisogna che il Parlamento legiferi. Allora, adesso lei spiega, ha deciso Renzi non andrà, ma serve solo aver pazienza, poi smonta la polemica, c'è stato sul colore della pelle dei figli, si può scegliere, ma dico no a bambini su misura, e dice sull'eterologa non ho perso tempo, tutti si fermino o sarà il caos. È un'intervista fatta a Michele Bocci. Allora, quello che noi non abbiamo capito, Nicoletta, forse tu ci puoi illuminare: la Consulta ha detto che l'eterologa si può fare, quindi in teoria si può fare. Sì, si può fare, e c'è anche fra le altre una rivolta in Toscana. La Toscana, fra le altre, è l'unica che ha adottato un atto che di fatto dà il via libera al trattamento nelle sue strutture. Fra le altre ha invitato anche i cittadini ad andare da altre regioni. Il fatto, diciamo, è successo nell'ultimo Consiglio dei Ministri, perché il ministro Lorenzin aveva portato un testo di legge per introdurre l'eterologa in Italia, ma la decisione unanime del Consiglio dei Ministri è stato di affidare al Parlamento l'impegno di varare una legge per introdurre l'eterologa in Italia. Il problema qui sicuramente sono i tempi, perché comunque si ha a che fare con temi che provocano dolore, insomma, alle persone, quindi bisogna vedere che tempi ci saranno. Fra le altre, il ministro ha scritto anche una lettera ai parlamentari per illustrare quelle che erano le sue linee guida della bozza di intervento che aveva predisposto, e si partiva dal recepimento di una direttiva europea, si passava all'istituzione di un registro nazionale per la tracciabilità donatore NAT, fatto, e veniva precisata anche la regola che l'intervento fosse gratuito e che fosse volontaria alla donazione di cellule riproduttive. Poi c'era il principio dell'anonimato del donatore e la sua deroga solo per esigenze di salute del bambino, e c'era l'introduzione di un limite massimo di nascite che era stato fissato a 10 per donatore e un limite minimo e massimo di età dei donatori, dai 18 ai 40 anni per gli uomini e dai 20 ai 35 per le donne, e l'introduzione immediata della fecondazione eterologa con relativa copertura finanziaria. I tempi, naturalmente rinviando a una legge del Parlamento, saranno sicuramente lunghi, ma le regioni si stanno organizzando, mi sembra. E poi bisogna dire che se il governo non fa un decreto, vige quello che dice la Consulta. Certo. Quindi la Lorenzin può anche dire, anche perché questa si è trattata un po' di una gaffe del ministro Lorenzin, lo vogliamo dire, perché ha lavorato per settimane a un decreto sulla fecondazione eterologa, scrive Michele Bocci su Repubblica, che venerdì il governo ha deciso di non presentare. Il ministro della salute Beatrice Lorenzin adesso chiede al sistema sanitario di aspettare, stop ai trattamenti fino a quando non arriverà la legge del Parlamento, ma in realtà lei non ha nessun potere decisionale, ci dovrebbe essere un decreto che non c'è, e dice sulla regione Toscana si tratta di una loro decisione, noi rispettiamo le decisioni di tutti e tutti si assumono le proprie responsabilità fino in fondo. Bisogna vedere cosa possono fare, come autorizzano i centri, se questi accettano di lavorare anche senza copertura legislativa. Io ho la vaga impressione che ogni volta che conservatrice e cattolica, ecco, scrive un nostro radioascoltatore, guardate che spesso conservare è meglio che innovare, ad esempio non vedo come la fecondazione eterologa possa essere vista come positiva. Io su queste si possono esprimere anche pareri, no? Questo radioascoltatore ha questo parere, io ho il parere opposto, secondo me va liberalizzato, perché con la legge 40 è successo una discriminazione, io considero una discriminazione economica nei confronti degli italiani, perché poi gli italiani economica andavano all'estero, perché gli italiani vanno all'estero, certo, e quindi comunque, chi se lo può permettere lo fa e chi non si può permettere non, esatto, lo fa, esatto, ed è una cosa di cui lo Stato deve sicuramente tenere conto, insomma. E tuona Giuliano Ferrara, che oramai è diventato l'ateo più cattolico che esista, o comunque due padri, due madri e due gemellini. Il Foglio Quotidiano decide di aprire così il dramma delle coppie vittime di uno scambio di embrione. La legge, la scienza, il caso, l'errore umano e una giustizia impossibile. Però voglio dire, anche qui c'è da dire che il fatto ha sempre preso delle posizioni molto molto particolari. Allora, segnalo anche per quanto riguarda la cronaca, intanto l'ultimo giorno del Vallo Occupato, torniamo a casa dopo 3 anni di barricate, finisce la protesta sul Messaggero, già oggi le prime verifiche dei tecnici per la stima dei molti danni. Ecco, quindi insomma i materassi ammassati sul palco, l'ultima scena del Teatro Valle occupato, si cambia, la performance adesso in strada, divani e brandine sull'asfalto. Speriamo che questo magnifico teatro, che è un teatro incredibile, bellissimo, non sia stato troppo danneggiato, anche se quelli che l'hanno occupato, che ricordiamo sono un gruppo di artisti, di intellettuali, ha sempre detto che hanno sempre controllato che questo splendido teatro antico non fosse danneggiato. Un articolo quindi di Lorenzo De Cicco e di Maria Lombardi. Segnalo anche un editoriale sulla Repubblica di Adriano Sofri sull'odio antisemita sui muri di Roma, la lista nera dei negozianti ebrei, shock nella capitale, spuntano manifesti contro la scritta boicott Israele, seguita dall'elenco di 50 nomi. Marino dice un fatto gravissimo, subito arresti e pene severe, si indaga negli ambienti di estrema destra. In sostanza Adriano Sofri dice attenzione che ci sono gli ebrei, c'è Israele, ma non è che gli ebrei italiani sono tutti a favore per esempio della politica di Bibi Netanyahu, ma poi comunque ci sono ebrei, ci sono italiani e sono ebrei, sono italiani e non è detto che siano a favore di Israele. Io ringrazio Nicoletta Cottone del Sole 24 Ore, ringrazio Alessandro Chiappini regia, vi do appuntamento a domani, una buona giornata da Elisabetta Fiorito.